Italia in controluce. Oggi è il 13 luglio, vi parla Daniele Biacchesi, questa è la prima edizione di Italia in controluce. Un viaggio nelle periferie di Roma e quelle narrate dal poeta, scrittore e regista cinematografico Pierpaolo Pasolini. Il reportage di Sabrina Pisu su Torbella Monaca. A est, quando Roma sembra finita, oltre il grande raccordo anulare, c'è Torbella Monaca, la borgata da demolire, da radere al suolo, secondo il sindaco Gianni Alemanno. Le case sono venute su con l'edilizia popolare negli anni Ottanta, una storia all'ombra delle famigerate torri come la R5, un grattacielo in cemento armato, solo qui ci sono 1200 appartamenti, un edificio come tanti altri, abbandonato all'incuria, con dentro 5000 abitanti in un quartiere che ne conta 240.000, una piccola città dimenticata nella sempre più estesa periferia romana. Io ci abito da 27 anni, questo quartiere l'ho visto nascere, cioè ho lottato per avere l'autobus, i telefoni, la farmacia comunale, il pronto soccorso, la scuola. La riqualificazione secondo me doveva partire dalla manutenzione che è mancata per 20 anni. Vincenzo Pampinella ha 80 anni, lo incontriamo in via dell'archeologia, la strada dove vive, il luogo dal quale sono partite tutte le battaglie per salvare il quartiere dall'isolamento e dall'abbandono. I cittadini chiedono non di demolire, ma di dotare il territorio di servizi pubblici e centri culturali, di non continuare nella politica dell'indifferenza verso questa parte della città che le forze dell'ordine definiscono ad alta criminalità, con in atto una guerra per il controllo dello spaccio di droga, una faida fatta di soldati e gruppi di fuoco, spiega Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alcune di queste guerre consistono in gambizzazioni, in atteggiamenti prevaricatori, in aggressioni, in arresti. Ci sono delle guerre fatte con le armi, delle guerre fatte attraverso altre bande criminali e guerre fatte anche attraverso l'utilizzo di personaggi ambigui che consentono, non so, ad esempio l'arresto di alcuni soggetti, quindi la eliminazione di avversari criminali. È una guerra strisciante, non è una guerra eclatante, sono episodi sanguinosi più limitati, anche se negli ultimi tempi sono diventati più frequenti. Il cuore di Torbella Monaca è via dell'archeologia, qui i boss hanno riciclato il denaro sporco comprando bar e negozi commerciali. Nelle zone periferiche Torbella Monaca è una di queste zone, vi è il riciclaggio dei proventi da attività illecite che viene effettuato dagli stessi criminali in modo diretto o indiretto attraverso intestazioni di queste attività ai genitori, ai parenti o a teste di legno, ma attività che sono radicate sul territorio, che possono essere bar, possono essere negozi di vario tipo più inseriti in un contesto urbano, che sono alcune delle finalizzazioni territoriali utilizzate dalla cosiddetta criminalità autoctona, perché in fondo la criminalità autoctona, nascondendosi sul proprio territorio e coprendosi attraverso delle attività reali nelle quali investono il denaro ottenuto, diventano anche in questo modo meno colpibili e nello stesso tempo sfruttano e fanno fruttare i proventi della loro attività illecita. All'ombra delle torri ogni giorno si svolge un'altra guerra, quella tra la legalità e l'illegalità, una Gomorra romana, cancelli e muri tirati su per creare zone franche, inaccessibili, impossibili da penetrare, racconta il colonnello Rosario Castello, comandante del gruppo carabinieri di Frascati. Lo spaccio viene effettuato nei pressi delle cosiddette torri. Abbiamo potuto constatare che gli acquirenti arrivano presso queste abitazioni, presso queste palazzine e lì usufruiscono dello stupefacente, che viene passato anche attraverso le finestre o le inferriate. Dico inferriate perché lungo le scale di questa abitazione sono poste dei cancelli per ostacolare l'attività della polizia giudiziaria e quindi anche dei carabinieri, in modo che nell'atto della perquisizione del controllo gli spacciatori possono liberarsi dello stupefacente. Per cui siamo più volte intervenuti con l'ausilio dei vigili del fuoco per abbattere materialmente questi cancelli e queste inferriate, per ripristinare la legalità in questo territorio. In questo quartiere, con oltre il 10% di dispersione scolastica, nella rete criminale cadono sempre di più i minorenni. Spesso sono proprio i minori che si occupano di distribuire la droga al dettaglio. Ricordo un'operazione compiuta 2 anni fa, costituita per lo più da minorenni, arrivavano fino anche a gambizzare i nemici, i rivali che si opponevano alla loro attività. Fu un fatto piuttosto clamoroso perché dei giovanissimi, oltre a spacciare e a commettere, diciamo, estorsioni in zona, si occupavano pure di effettuare delle azioni così clamorose per imporre la loro forza delinquenziale nel territorio. Dietro questi giovani vi sono anche dei gruppi criminali che si occupano dell'importazione e della diffusione dello stupefacente, per cui i giovanissimi sono quelli che spacciano a dettaglio, però dietro vi sono anche organizzazioni ben strutturate che si occupano di approvvigionare lo stupefacente. Torbella Monaca è anche terra e covo di latitanti. Sono stati rintracciati a Torbella Monaca degli esponenti latitanti di clan camorristici, ma anche dell'Andrangheta. Vi sono state appunto operazioni che hanno consentito di individuare in questo quartiere questi latitanti con precedenti ricercati per mafia. In 20 anni la mancanza di servizi e di importanti opere pubbliche ha cresciuto il degrado. Gli appartamenti popolari si occupano mettendo in tasca anche 50.000 euro o si affittano ai clandestini, una storia che si ripete da decenni, ma ora si pensa a distruggere. Entro l'estate la delibera per la demolizione e ricostruzione di Torbella Monaca arriverà infatti in Assemblea Capitolina, 84 mesi per buttare giù e ricostruire. Quello che è mancato e che serve a Torbella Monaca è la manutenzione, sostiene Vezio De Lucia, urbanista, già direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei Lavori Pubblici. È un quartiere che ha bisogno soprattutto di manutenzione e di gestione. Quello che è mancato a Torbella Monaca è una corretta gestione sia degli spazi pubblici sia del patrimonio immobiliare. Torbella Monaca, se invece di essere rasa al suolo fosse inglobata nella città attraverso il completamento dei servizi pubblici e dei centri culturali, potrebbe essere riqualificata. Lo dimostra l'esperienza del liceo Amaldi, conosciuto in tutta Roma perché è raro esempio di eccellenza. Una battaglia vinta dai cittadini e rivendicata con orgoglio da Vincenzo Pampinella. Il Ministero della Pubblica Istruzione sosteneva che il liceo, oltre al raccordo anulare, non era necessario visto la bassa cultura. Oggi è la perla di Torbella Monaca perché è il primo liceo per risultati in Italia. Italia in controluce, la prima edizione, siamo su Facebook, Twitter, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24.